9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 29 settembre. La puntata di oggi è dedicata a un ospite particolare che stiamo aspettando, perché il bello della diretta è che con il traffico di Roma arriverà tra poco, ma ci ha appena avvisato che si sta avvicinando. E qual è? Chi è questo ospite particolare? È la signora Assunta Almirante, che è stata per dai primissimi anni 50 fino alla sua morte nel 1988 compagna, moglie di Giorgio Almirante, il segretario leader del Movimento Sociale Italiano. E ne parliamo perché ne avete visto in questi giorni interviste, ospitate in televisione, perché è uscito un libro per la collana dei libri del Borghese. Un libro che raccoglie le testimonianze di tutta la sua parabola come donna del sud, come imprenditrice, e poi a fianco di Giorgio Almirante una bella testimonianza raccolta dal collega Antonio De Pascale, il libro si intitola La mia vita con Giorgio. E poiché Giorgio Almirante è stato il discusso, l'avversato, ma anche l'energico protagonista in tutta la Prima Repubblica, è scomparso praticamente pochi mesi prima del crollo del muro di Berlino, di una pagina di fedeltà, per così dire, il regime contro il quale era nata la Repubblica Democratica, e però ha saputo con la sua tenacia, con la sua intransigenza, ancorare un bel po' di votarelli, un bel po' di consensi intorno a un'evoluzione politica di un partito, il Movimento Sociale, che prima nella continuità assoluta e quindi con la forte avversione della sinistra, ma in molte occasioni istituzionali decisive della Prima Repubblica, diede poi voti fondamentali per eleggere il Presidente della Repubblica, sindaci, e iniziò poi a mettere molti consensi, dapprima solo nel Sud e poi via via nell'elettorato moderato italiano, fino a che negli anni 70 l'esplosione della parabola della violenza, della violenza contrapposta, dei molti morti nelle piazze, molti di questi attivisti dell'estrema destra, e molti di questi naturalmente della parte avversa, anni terribili nella storia italiana. E dopodiché Bettino Craxi, quello che fu il cosiddetto sdoganamento, alla fine il superamento di quella formula, l'arco costituzionale che aveva escluso fin dall'origine il Movimento Sociale dall'arco dei partiti, con cui per così dire il commercio politico, la convergenza era praticata alla luce del sole, spesso veniva praticata invece non alla luce del sole. Ma in tutto questo la testimonianza della donna Assunta è molto importante, perché a fianco di un uomo così discusso, ma insieme agli occhi di tanti italiani, non di quelli che lo votavano, di molti di più, come si vide quando fece la scelta di andare a testimoniare la sua solidarietà per la scomparsa di Berlinguer, quando tanti italiani poi di fronte all'esequio di Giorgio Almirante gli tributarono un grandissimo buongiorno signora Assunta, si sieda pure, quello è il suo posto. Grazie. Intanto può mettere la cuffia, io la stavo semplicemente presentando, signora, e stavamo dicendo perché per l'uscita di questo bel libro, vediamo se con la cuffia sente bene, ecco, abbiamo deciso di ospitarla oggi, dicevo, a fianco di un uomo che ha avuto il compito in tutta la parabola della Prima Repubblica di rappresentare non solo i voti che ha saputo prendere in momenti tanto difficili e con una posizione politica tanto avversata, tanto discussa, ma anche perché, come si vide poi in alcuni passaggi decisivi, per esempio l'omaggio che Giorgio Almirante ha deciso di rendere a Enrico Berlinguer, ma soprattutto anche l'omaggio che tanti italiani diedero a Giorgio Almirante quando scomparve, si capì che era un politico che incarnava agli occhi di tanta gente, al di là di chi gli dava i voti, una maniera di stare in politica, una maniera coerente a un messaggio, coerente a dei valori, valori che naturalmente tanti altri non condividevano, ma insomma, alla luce di quello che si è visto poi nell'Italia, nella Seconda Repubblica successiva, in quello che abbiamo sotto i nostri occhi, una maniera di fare politica, una maniera di vivere, che in questo libro, vi ripeto il titolo, La mia vita con Giorgio, viene ripercorso in un'intera parabola, e che sicuramente ha avuto nella signora Assunta un pilastro, un riferimento essenziale. Quindi la sua è una testimonianza che più passa il tempo più ci ricorda non solo chi era il marito e che cosa ha fatto per quel filone politico, ma ci ricorda soprattutto ogni giorno che cosa uomini e donne di coerenza e di misura, che è una cosa molto importante, possono dare per la politica e per il proprio paese quando è al servizio di un'idea del paese. Allora io comincerei, signora, chiedendole da un paio di passaggi del libro. Io le chiederò pochissimi giudizi sulla politica di oggi, a dire la verità. Io so che nelle interviste le chiedono sempre cosa pensa di quello che succede oggi, oggi c'è Berlusconi. Per quello che riguarda noi, a noi interessa soprattutto le parole che qui spende, per come lei ha vissuto tutti quegli anni, per l'Italia di cui è stata testimone. E la prima cosa che le chiedo si riferisce al fatto che fin dall'inizio, fin da quando lei presenta il suo primo incontro con Giorgio Almirante e poi in tutta la parabola successiva, lei dice sempre Giorgio Almirante era un sincero democratico. Allora, per la memoria di suo marito e per tutto quello che poi è venuto dall'evoluzione politica successiva, ma anche per quello che è stato in quegli anni, può spiegare a chi è in ascolto e chi ha un'idea, magari è giovane, quindi non ha un'idea precisa di chi è stato Giorgio Almirante, corre il rischio di vedere un Giorgio Almirante consegnato come una specie di figurina, come il fucilatore, come si diceva. Ricordo a tutti che Giorgio Almirante ebbe aperto un procedimento giudiziario per 18 anni con autorizzazioni a precedere che nei suoi confronti furono regolarmente votate, concesse dal Parlamento, non negate come avveniva ad altri nella Prima Repubblica, e che poi venne chiusa senza un solo passo avanti per tantissimi anni alla Procura di Roma solo dopo la sua morte. Questo per dire, quindi è un uomo contro il quale furono elevate molte accuse. Però lei dice sempre: mio marito era un sincero democratico. Possiamo iniziare dicendo perché, secondo lei, in che cosa consisteva la scelta di democrazia di suo marito? La democrazia sua era praticamente il fatto che era aperto a tutti, quindi no, lui non aveva davanti sia in Parlamento che all'esterno, anche quando lui parlava alla folla, non pensava di non avere dei nemici, ma degli avversari, esclusivamente degli avversari. Di conseguenza lui diceva la sua, ma credeva anche e aveva intenzione e interesse di sentire anche quelli che dicevano gli altri. Quindi questa è la vera democrazia, cioè quello che io penso di poter dire a lei e cercare di convincerla dalla mia parte. Se lei poi non accetta, è piacevolissimo sentirsi dire non è così, io la penso in un'altra maniera, e senza arrivare al litigio permanente che noi assistiamo con parole assurde e poco educate, poco per bene in televisione. E non è democrazia quella, quella è avversione. Lei a un certo punto, tocchiamo un altro punto delicato, poi lo sorpassiamo, però bisogna farlo perché c'è chi sempre tira fuori accuse, quindi affrontiamole direttamente come lei fa nel libro. Lei a un certo punto dice: Giorgio razzista, Giorgio violento, fandonie, calunnie, ricostruzioni storiche faziose. Gli Almirante sono sempre stata gente per bene, e suo fratello Luigi, fratello di Giorgio, ha sposato una donna ebrea, Lucia, con mio marito che ha fatto loro da testimone di nozze nella sinagoga. Figuriamoci quindi se era razzista. È verissimo, tant'è vero che io che vengo da Milano, la prima cosa che ho fatto è telefonata a Lucia. Sono stata a pranzo con lei tranquillamente, conosco la sua famiglia, siamo state sempre in grande armonia, mai, assolutamente mai è stato toccato dalla parte avversaria, chiamiamola così, dalla famiglia di mia cognata, mai questo argomento, per il semplice fatto che non c'era, che non esisteva, anche perché mio marito era tanto amico anche di Enrico Levi, che praticamente Enrico Levi, che veniva a casa nostra, mangiava con noi, chiacchierava con noi, amici della famiglia, l'ha salvato e l'ha tenuto in fureria su nel nord. Quindi tutte queste cariche che venivano date, incarichi che venivano date e calunnie che venivano date all'uomo, era esclusivamente perché non lo consideravano un avversario, ma lo consideravano un avversario pericoloso per quello che diceva, per i valori che aveva, per quello che voleva dare al popolo italiano. E allora questo era diventato, loro consideravano un nemico Almirante. Almirante invece considerava degli avversari quelli che erano insieme a lui in Parlamento. Senta, una delle pagine più discusse, delicate, insomma, della parabola politica della Prima Repubblica furono i referendum per i cosiddetti diritti civili, e quindi il referendum sulla legge sul divorzio. Lei ricorda nelle pagine del libro che lei in realtà personalmente non era poi nella posizione che fu scelta dal Movimento Sociale a fianco della Democrazia Cristiana e che poi ha perso nelle urne, e cioè la difesa del divorzio. Lei era per difendere l'istituto del divorzio, e dice che in realtà anche suo marito, per esperienze personali, per le vostre vite, per come si erano intrecciate le vostre vite, ma per convinzione eravate, insomma, su opinioni diverse. Quella pagina, come la ricorda a distanza di tempo? Fu giusto davvero prendere quella decisione politica? Perché poi lei dice anche che non nascondeva le sue opinioni, e quindi il marito rimaneva un po' perplesso di fronte a quello che lei diceva. Sì, è verissimo, ma lui fu obbligato praticamente, perché essendo lui un reale democratico, riunito l'esecutivo del suo partito, l'esecutivo del partito lo mise in minoranza. E allora lui, ubbidendo a quelle che erano le decisioni dei maggiorenti del partito, ha dovuto accettare, ma mal volentieri, perché lui la considerava una legge civilissima questa, perché andando in giro per il mondo e vedendo soprattutto il fatto degli italiani, che erano gli italiani nel mondo che avevano cercato lavoro e si erano ricostituito una famiglia tenendo anche la loro, soprattutto i meridionali, le cosiddette vedove bianche, si rendeva conto che no, più che per lui, per la famiglia, anche per i figli che non riuscivano ad avere un padre regolare, quindi ecco perché era favorevole al divorzio. Però il partito lo mise in minoranza e lui, ubbidendo a questo senso della democrazia, o si doveva dimettere da segretario del partito e affidarla all'altra, anche perché il precedente suo segretario, che era Michelini, aveva preso impegni con la Democrazia Cristiana. E quindi lui li rispettò. Quindi c'era e c'è sempre stata una logica democratica di maggioranza e minoranza. Del resto anche la storia di suo marito nel suo partito è stato per anni non segretario, poi sì, segretario nei congressi, ci si contava e con una certa energia. Certo. C'è un po' di nostalgia per quei partiti in cui ci si contava, si facevano le emozioni. Ah, ma sì. C'è una nostalgia terribile, perché ormai non c'è democrazia. A mio avviso incomincia a nascere, e noi italiani mi auguro che si incominci a pensare che c'è solo un po' di dittatura. Pensiamo per esempio la famosa legge che c'è, che noi siamo costretti ad andare a votare dei simboli e non degli uomini. Ma io non ci sto. Io non ho il cervello all'ammasso, io voglio scegliermi gli uomini, coloro che penso che siano capaci di poter amministrare la mia vita e quella dei cittadini. Io devo dire che ci metto la firma sotto questa dichiarazione della signora Assunta. Questa legge elettorale, così, visto che è facile dire ad altri di altri tempi che erano totalitari, è una legge un po' particolare. E comunque i partiti sono fatti per contarsi all'interno. E in quel partito, che tanti ricordano con una specie di piega sulle labbra, ci si contava e come. E tant'è che Almirante, che tutti ricordano come l'unico leader, è stato per anni in minoranza e non gli hanno fatto mettere piede nella direzione del suo partito, perché era un partito come tutti, devo dire, all'epoca, come sì, tutti. Sì. Da una parte, forse quello meno democratico era quello, insomma, che obbediva a Mosca, ma questo per altre ragioni. E lei a un certo punto nel libro dice: ma a scanso di equivoci va ripetuto ad alta voce che io, sta parlando in prima persona, non ho mai fatto politica quando ero accanto a lui. Non ne sentivo l'esigenza, non era richiesto il mio contributo. Io, giustamente, ero solo sua moglie. L'ho iniziata a fare la politica solo dopo la sua morte, scendendo in lotta per difendere la sua memoria. Qui veniamo a un punto un po' delicato. Nel senso che il ruolo delle signore a fianco degli uomini politici, secondo lei, era la sua interpretazione personale e altra durante la Prima Repubblica? Facevano diversamente? Oppure era un codice diffuso al di là dei partiti allora? Come lo vede cambiato oggi e come era meglio? Era meglio questa sua interpretazione o quella che si è vista dopo, con modi di politici parlamentari, senza mancare di rispetto a nessuno? Però è vero che è un aspetto evidente del cambiamento che c'è stato. Beh, guardi, io sono dell'avviso che quando uno fa una professione è normale che se un medico mette sul letto un ammalato che lo deve operare, non credo che ci sia praticamente la moglie che gli dice opera così. Quindi, avendo stima dell'uomo, conoscendone le qualità, conoscendone l'onestà morale e civile, avevo rispetto delle sue azioni e certamente qualche volta, chiacchierando così amichevolmente, davo timidamente il mio parere, ma non era un parere di, diciamo, quasi di obbligo o di ascoltarmi. Dicevo, io la penso così, ecco, questa chiacchiera fra noi due arrivava. Certo, lui prendeva in considerazione quello che considerava valido, non quello che gli potevo dire io, ecco. E quindi c'era una differenza, anche perché io rispetto sempre il lavoro degli altri. Perché rispetto il mio, io sono, diciamo, una che si interessa di agricoltura, comando e quindi voglio che venga eseguito in quella determinata maniera quello che è il mio lavoro, altrettanto rispetto a quello degli altri. La signora è molto modesta, la signora ha da sempre amministrato imprese agricole con un certo successo che le è stato riconosciuto da sempre, in anni in cui non era facile trovare donne alla testa di imprese agricole. Quindi quando dice mi occupo di agricoltura, non è che c'è il pollice verde la signora, diciamo, no. Fin dall'inizio sua famiglia che aveva imprese ne ha comprate altre in anni molto lontani. Quindi vedendo lontano anche sullo sviluppo che quei terreni potevano avere, lontano da dove li avevano in Calabria, perché la famiglia appartiene a una famiglia aristocratica calabrese. A un certo punto nel libro lei dice: come non ho interferito nella vita di partito e con le responsabilità politiche di mio marito, così non sono mai salita su un palco, tranne a Mirabello nel 1987. Mirabello, ricordate, è il luogo storico dove ogni anno c'è la festa, poi è diventata la festa di Alleanza Nazionale, l'ultima edizione, quella con il discorso di Gianfranco Fini poche settimane fa, tranne a Mirabello, dice Donna Assunta, quando, e si parla di Mirabello nel 1987, quando Tatarella, Gasparri e La Russa mi pregarono di salire per dire a Giorgio sul palco che doveva essere Fini il suo successore, e così fu. Io ripeto che durante i comizi di Almirante ero sempre presente, ma che mai mi spostavo da sotto il palco, salii e riferì a Giorgio, che capì ed annunciò pubblicamente che lui, quale successore, quale segretario del Movimento Sociale, aveva un occhio particolare per Gianfranco Fini. E questa è la sua ricostruzione del ruolo che molto spesso alcuni le hanno riconosciuto, altri le hanno rimproverato a seconda di come andavano poi le vicende politiche, una specie di, insomma, talent scout a favore di Gianfranco Fini. Le chiedo, ma è andata proprio così perché le hanno detto riferisci sul palco, o c'era molto di suo? Ma io ero praticamente favorevole, perché preferivo che si cambiasse generazione, perché lui riempiva le piazze in una maniera incredibile, c'erano folle immense, tante che c'erano i cordoni d'ordine, c'erano i giovani che facevano i famosi cordoni per non mettere il pubblico che arrivasse sul palco, cosa che oggi è difficile trovare, ecco, questa è la realtà dei fatti. La sua parola era praticamente, era considerato un mito della parola, ed è rimasto tale, perché all'infuori di pochi era l'unico che veramente riusciva ad abbracciare il pubblico quando parlava, ecco. Quindi la questione di cambiare generazione io la consideravo una questione valida. E sono stata pressata, ma devo dire che volontariamente anche ero quasi favorevole, perché dico, tu hai le piazze che sono gremitissime, però le urne purtroppo restano vuote, perché si vedeva, no? Quindi, perché c'era questa persecuzione permanente all'uomo, ecco, lui ha avuto una vita favorevole da parte degli ascolti e della devozione del popolo, ma aveva praticamente una classe dirigente dell'epoca, sinistra, centro e via di seguito, che naturalmente temevano la presenza di quest'uomo, e di conseguenza lo perseguitavano raccontando delle balle continuate, come quelle che lei ha letto poc'anzi sulla questione degli ebrei. Come si fa a essere contro gli ebrei quando poi addirittura il fratello sposa l'ebrea? È una cosa talmente strana che praticamente fa ridere i polli, no? E tanto che poi finiva nei tribunali e finiva con l'essere poi ad avere ragione lui, ecco. Quindi la stessa cosa dicasi per la questione di Gianfranco Fini. Io ero favorevole per il semplice fatto che volevo questo cambio di generazione, gente che erano stati con lui permanentemente 30 anni, dico, vediamo se mettendo un giovane che non era nato durante il periodo fascista, che non c'era, che non aveva praticamente fatto nulla, vediamo se si può cambiare e si può andare a destra invece che restare permanentemente tra centro e sinistra. Non le chiedo un'opinione su quello che sta succedendo in questi giorni e quello che succederà domani, il voto di fiducia. Le dico complessivamente, per i valori e per l'esperienza politica a cui ha assistito, a cui ha dato una mano in tanti decenni, se ne è pentita? È comunque un bilancio positivo quello a distanza di anni di Gianfranco Fini ai suoi occhi? Beh, certamente sì, perché il gruppo che lo ha seguito all'infuori, diciamo, di pochi, che potrebbe essere per esempio Ignazio La Russa, che è uno degli uomini, perché io, conoscendo molto bene il padre, che era un grande personaggio politico, tanto che il padre di Ignazio La Russa fu uno dei, l'unico insieme a me, che non ha aderito quando c'è stato il cambio della guardia a Fiuggi. Non abbiamo aderito nessuno dei due, ce ne siamo andati, e quindi tranne i pochi, ecco, c'è praticamente da non essere contenti, perché per il semplice fatto questi litigi permanenti nell'interno del partito, questo fare di chiudere la propria casa, che era quella che era Movimento Sociale, poi la trasferirono, che cosa poteva cambiare secondo lei, che è un esperto di politica più di me, che sono praticamente una novellina, ma pensando lei, come, che è pratico e vive di questo, vive nella politica, immerso nella politica, cosa può cambiare quando c'è scritto in un certo posto destra nazionale con alleanza nazionale? Cos'è che cambia? Il contenuto è quello, anche perché Almirante aveva già aperto con la destra nazionale, i monarchici, i comunisti, tra cui un nome importante era Plebe, con tutti Zacchero, per esempio, che era un partigiano, vicepresidente della Camera, aveva aderito alla destra nazionale di Almirante. Cambiarla con alleanza cosa significava? Niente. Restando nella propria casa, avendo il proprio simbolo, cosa cambia? Niente. È solo parole per prendere in giro la gente. Quindi non hanno combinato nulla, ed io non ero molto favorevole alla chiusura della casa. Ero favorevole invece all'alleanza con Berlusconi, che stimo, che essendo lui un uomo, diciamo, di prestigio, che ha lavorato, prodotto, che aveva praticamente la possibilità di aiutare questi giovani che arrivavano, ero favorevole ad un'alleanza, ma non a chiudere la propria casa. Tant'è vero che, come vede, adesso non sappiamo se tornano indietro o restano al centro. E beh, essendo stata lei tra quelle che dicevano c'era bisogno di un cambio generazionale, non era il misonismo, cioè non era il timore del nuovo a dare questo giudizio. Io invito chi è a casa a non credere che la signora sia presa da particolari interessi per le vicende personali. Io non so, molti di voi credono che la signora sia, diciamo così, le sue parole valgano per interviste nei giornali di gossip e così via. Invece io credo che quando si ha una passione profonda, poi ci si distacca dalle vicende particolari. Però ciò malgrado si nutrono opinioni che hanno un qualche peso, al di là della polvere quotidiana che spesso fa perdere la testa e la vista ai politici. Ora pubblicità, torniamo tra poco con la signora Assunta Almirante. Eccoci tornati in studio, siamo qui con la signora Assunta Almirante per questo libro, La mia vita con Giorgio, raccolto da Antonio De Pascali, collana ai libri del Borghese, che è appena uscito. Sono 14 euro, vi trovate la testimonianza di una appassionata, puntigliosa, orgogliosa signora di nobile famiglia del sud, che a un certo punto incrociano la propria vita nei primissimi anni 50, un politico pieno dalla missione di dover tenere alti i valori di un'Italia. Italia che era uscita sconfitta dalla guerra, sconfitta per la parte politica di cui credeva, e che gira come un pazzo l'Italia, che questo ha fatto Giorgio Almirante dall'inizio alla fine. Apparteneva a una generazione di politici che nel comizio, nelle piazze, nel contatto con la gente, avevano il vero, unico all'epoca, fondamentale strumento di comunicazione, un maestro dell'oratoria politica. Che ne pensiate? Però che ne pensiate di Giorgio Almirante? Quello che vi posso dire io, che sono figlio di anni terribili, gli anni 70, anni di morti, di sangue a fiume da parte opposte, un politico che non è da ricordare, qualunque cosa pensiate di quella famiglia politica, come una specie di immaginetta dell'oltranzismo, perché stiamo comunque parlando di un capo della destra nazionale italiana che aveva una mentalità politica capace di portarlo ad accordi, capace di interpretare per esempio la protesta dei ceti popolari del sud, di regioni come la Calabria, la Sicilia, la Puglia, in Campania, con una lungimiranza che oggi, rispetto alla questione nord posta dalla Lega tanti decenni dopo, farebbe riflettere secondo me molti, e che per questo iniziò poi a prendere tra gli anni 60 e i primi anni 70 caterve di voti. Quando dico caterve significa che c'erano molte città italiane nel sud di cui era il primo partito, e quindi non era semplicemente oltranzismo, era una visione politica che viveva anche di capacità di sapere distinguere diversi livelli. Per esempio l'oratoria di Giorgio Lamante, di Giorgio Almirante, per chi se la ricorda, era molto appassionata ed era appunto capace di mobilitare grandi piazze. Contemporaneamente però era un'oratoria capace di grande rigore logico negli argomenti, sapeva misurare molto i toni, li sapeva misurare non solo nei confronti degli avversari, ma tutti ricordano le vecchie tribune politiche in bianco e nero, che non ci sono più perché oramai i politici vogliono solo parlare scegliendosi gli ospiti, eppure i giornalisti, se posso dire la verità, e nelle tribune elettorali che non ci sono più, Giorgio Almirante aveva una capacità molto tagliente, logica però, senza mai alzare la voce, di rispondere per esempio ai giornalisti della sinistra, dell'altra parte, che lo rendeva poi in quelle prime tribune politiche capace di bucare il video come pochissimi altri, perché invece la classe politica allora era non così capace di essere tagliente, rigorosa e rispettosa. E all'epoca in pochi praticavano l'arte di non parlare con lui, perché non parlare con lui significava dargli la vittoria a tavolino. Questo è il piccolo particolare. Signora, quando nella Seconda Repubblica i moduli di comunicazione della politica hanno cominciato a cambiare così significativamente, certo c'è la televisione, c'è, però è proprio è una concezione della politica che è cambiata. Oggi i leader politici parlano solo alla gente e non vogliono contraddittorio. Suo marito non solo aveva il contraddittorio, ma spesso doveva conquistarselo, per così dire. Lei racconta nel libro come una volta, per esempio, a un autogrill, tutti incrociano le braccia, si rifiutano di darvi da mangiare la benzina e anzi chiedono anche che voi paghiate il primo e il secondo che non avevate mangiato. Questa era l'Italia dell'epoca. Secondo lei, da che cosa dipende questo cambiamento dei politici così radicale? Rispecchia il cambiamento degli italiani, o sono gli italiani che hanno dovuto, per così dire, fare nozze con i fichi secchi e farsi andare bene i politici, che non sono più capaci di parlare con rispetto come prima? Qual è, secondo lei, la vera radice del cambiamento? Io sono del parere della sua seconda politica, cioè gli uomini che non riescono più, non riusciamo più a stabilire gli uomini capaci, perché essendo nominati e non eletti, nessuno di noi sa chi ci va. Lo sanno semplicemente i 5-6 che sono i segretari di partito, che naturalmente pensano che lei, che io possiamo essere all'altezza di ubbidire, ma non di comandare, non di dare pareri, perché il silenzio è praticamente obbligatorio in quanto formulano la legge, ed io ho la sola funzione, essendo nominato, di fare come all'epoca di Giulio Cesare, il pollice in giù e il pollice in su. Quindi ecco, questo è il cambio. E quei pochi che riescono ad arrivare al comando sono sempre quelli che lei vede in vetrina, in televisione, che predicano, litigano uno sull'altro. Anche un altro aspetto terribile, quello che si nota, che se io sto parlando, lei interviene su quello che dico, io rispondo a lei, va a finire che noi, che siamo spettatori seduti seduti su un divano, giriamo, perché è tale la noia. E diciamo anche questo, anche la maleducazione, perché bisogna che uno finisca e che l'altro gli risponda. Ma se mentre lei parla io intervengo, lì io non capisco né a lei né all'altro. E si interrompe il filo, e questa è la maniera di non dialogare. Senta, un altro punto in cui la politica italiana, il paese è cambiato, riguarda proprio il ruolo delle donne. Cioè, noi veniamo dall'Italia della Prima Repubblica, il ruolo delle donne non era riconosciuto nella parità, né sul lavoro, né nelle leggi. Lei a un certo punto mi colpisce perché dice: io che pure ero per il divorzio allora, quando prendemmo un'altra decisione politica, ne abbiamo parlato, oggi penso che il ruolo della donna rispetto all'uomo non vada bene, sia successo qualche cosa che ha riequilibrato troppo. Ci vuole dire come la pensa su questo? Che cosa è avvenuto? C'è un ruolo eccessivamente invadente, secondo lei? È colpa delle leggi? Sono cambiate le donne? O è una reazione anche delle donne di fronte al fatto che poi il dibattito pubblico, i posti di lavoro, a parole le rispettano, ma di fatto continuano a trattarle come corpi, a sfruttarle come corpi? Perché questo giudizio mi ha molto colpito, che lei dice nel libro. Beh, è molto brutto questo delle donne, perché io sono per quelle che ci può essere senz'altro la parità fra donne e uomo, senz'altro, ma la parità va in funzione dei cervelli, non del fisico. Ecco, non è che io che mi presento ben vestita, tutta scollacciata, tutta fatta, bisogna che però chi mi sta di fronte, prendendo io un posto di comando, si deve rendere conto se il mio cervello è valido come il mio corpo. Ecco, la confusione che adesso nasce è che chiunque delle donne pensano di poter fare determinate cose, invece ad ognuno il proprio mestiere. Sono rare le donne che lei trova che fanno praticamente i chirurghi, sono pochissime. Io ne conosco una. Ma lei pensa che non sono brave abbastanza, o perché sono ancora tanto discriminate? No, io penso che non sono brave abbastanza, perché cioè è la facilità con cui noi pensiamo che si può fare. Ecco, c'è poca serietà nello scegliere la professione. Io penso solo a questo. Penso che tutti abbiamo il diritto di poter fare determinate cose, ma non è vero. Ognuno può fare determinate cose avendone praticamente la predisposizione, ma non che io posso fare la scrittrice oppure mi posso mettere a fare il chirurgo. Io l'ammazzerei la persona che che se mi venisse in mente di fare il chirurgo, perché non avendo coraggio, non avendo capacità, non sono in grado di farlo. Invece adesso c'è la caccia al posto, ma non alla capacità. Ecco, non ci misuriamo noi donne. Pensiamo che possiamo arrivare dove arriva l'uomo. L'uomo non può fare quello che può fare la donna, assolutamente no. Io, per esempio, facevo un lavoro molto difficile facendo l'agricoltore. Ero rarissima. Lei poteva mai pensare, oggi posso pensare di fare l'agricoltore e di andare in banca a chiedere dei soldi al direttore che devo comprare un trattore. Una volta era inconcepibile. Il solo direttore non mi avrebbe dato credito. Certo. Non mi dava credito perché pensava, dice, la signora si compra le pellicce ma non andrà a comprare il trattore, cosa che era difficilissimo. Io devo dire che invece anche all'epoca, che io non sono una ragazzina, io all'epoca riuscivo ad avere la capacità di farmi rispettare dai direttori di banca e farmi dare i mutui e anche darmi delle concessioni finanziarie. Senta, una delle caratteristiche della destra è sempre stata quella, dopo la terribile Seconda Guerra Mondiale, di dover riscattare un'idea di patria, di nazione. Se dovessimo declinarla nell'Italia di oggi, in questa Europa che non riesce ad avere una politica, che ha il problema dell'eurodebito con i paesi, Germania contro tutti e così via, un'idea di nazione, di difesa dell'idea di patria italiana, se lei dovesse in sintesi chiedere a un politico di dire battiti per questa idea di Italia, quando siamo qui a dividerci ancora 150 anni dall'unità, se è un valore l'unità oppure no, in sintesi secondo lei l'idea di una patria che una destra nazionale debba ancora difendere e di cui secondo lei gli italiani sono ancora attaccati, qual è? Ma vedo che è molto calata. Ecco, ormai si pensa tutti ad espatriare, il mondo per tutti è diventato aperto. Ecco, quindi l'idea di patria incomincia un po' a diminuire. Ecco, io per esempio lo sento ancora il dovere di patria, il sentimento di patria, e andando, avendo la possibilità, come l'ho avuta anche accanto a mio marito, di conoscere il mondo, la differenza tra un popolo e l'altro esiste, non c'è questa specie di voler. Ecco, non siamo tutti uguali, assolutamente no. E tra l'altro, grandi paesi che continuano ad avere un grande peso nel mondo, il senso nazionale della patria e degli interessi nazionali ce l'hanno, e come? Dagli americani ai tedeschi, come stiamo scoprendo in questa fase. E quindi non c'è niente di male, perché no, io se fosse assolutamente un elettore... no, da rispettarli. Ecco, mentre noi incominciamo ad avere questo degrado pure. Da non pensare che l'Italia è l'Italia, è la mia patria, ci sono nata, ci sono i miei genitori, ci sono i miei morti, ecco, è la mia patria, è la mia terra, e la trovo diversa dagli altri quando giro, è la più bella del mondo l'Italia. Eh sì, devo dire che la difficoltà per gli politici di declinare ancora un'idea nazionale molto forte, eppure, ripeto, grandi paesi, democraticissimi, sanno imporre i loro interessi nazionali. E io credo che la politica sia la convergenza, ma anche la divergenza franca di interessi nazionali, però dichiarati da classi politiche che devono essere all'altezza di quei valori. Il problema è che quando si perde un interesse nazionale, forse perché il politico non sa più dove sta. Questo è il piccolo particolare. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, un minuto e poi torniamo in studio. Eccoci tornati in studio con Donna Assunta Almirante, La mia vita con Giorgio, editrice libri del Borghese, il titolo di un libro che esce, raccolto da Antonio De Pascale, con le testimonianze della signora Almirante. Io ringrazio coloro che sono in ascolto, perché oggi, a dire la verità, a differenza di quello che immaginavo, in realtà i commenti, diciamo quelli solitamente tosti che mi riservate di dissenso, sono molto meno di quello che io mi aspettavo, e devo dire che questo io lo attribuisco al tono caldo, misurato ed equilibrato della signora Almirante, perché ci tengo a dirglielo, stiamo suscitando molto meno improperi di quanto io da solo non susciti, che insomma è un bel riconoscimento a lei. C'è qualcuno naturalmente che esprime le sue opinioni con una certa intolleranza, però noi siamo abituati a incassare e a ringraziare anche loro, io non li ricambio, penso che non sia giusto insultare, però quello che vi dico io è che, pur non avendo mai militato né simpatizzato per quella parte politica, ma per un altro partito fondato da un fondatore della Repubblica, io devo dire che ritrovo nella ricostruzione di quella politica, di quell'atmosfera, di quel dibattito all'interno dei partiti acceso, durissimo, e purtroppo anche nel dramma degli anni 70, su cui nel libro troverete delle pagine di durissima condanna di ogni violenza, delle tante vittime che quel partito e la contrapposta parte politica ha avuto, però io penso che sia giusto ricordare la memoria e soprattutto custodire i veri principi di una politica fondata su idee, ma sul contarsi nei partiti, su contare le leadership, secondo me è una buona testimonianza, e per questo abbiamo scelto Don Assunta Almirante. Sentiamo due telefonate rapide e poi gliele facciamo commentare. Innanzitutto Davide, che ci chiama dalla provincia di Venezia. Prego Davide. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Ci dica. Senta, se possibile, mi piacerebbe conoscere il pensiero della signora relativamente alla considerazione che ha della donna il nostro Presidente del Consiglio. Ah, yeah. E se possibile, una cosa ancora più difficile, cosa potrebbe pensarne il suo marito in questo momento? Ah, yeah. La ringrazio, ascolto per radio. Grazie Davide, andiamo alla seconda telefonata, poi risponde la signora Massimo che ci chiama da Massa. Prego, sì, Massimo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Un saluto a lei, dottor Giannino, e alla signora Almirante, don Almirante. Io ho 49 anni, quindi ho ricordo delle vecchie tribune politiche, quelle di una volta. Ah, ne parlavamo prima, sì. Sì, infatti, vi sentivo. Dico che familiarmente provengo dalla sinistra, quindi a quei tempi si figuri votavo per il PDU di Lucio Magri. Ah. E il mio ricordo che ho dell'onorevole Almirante, del signor Almirante, è una tribuna politica in cui un giornalista di Lotta Continua si alzò dal tavolo perché non voleva intervistare l'onorevole Almirante. Proprio. E mi ricordo la grande lezione di democrazia che dette l'onorevole Almirante, cercò di fargli cambiare idea, non ce la fece, il giornalista si alzò, se ne andò, lui rimase seduto, si disse dispiaciuto perché questo giornalista se n'era andato. Niente, ho un grande ricordo di questo personaggio, anche se non la pensavo come lui. E deve Massimo, ci può dire, volta, Massimo di... ci può dire nel ricordare questo episodio, se l'onorevole Almirante espresse in quella circostanza dei giudizi durissimi, di mancanza di rispetto, gli diede quello che si sente abitualmente in questi anni da parte di... Ecco, questa è la differenza. Espresse rammarico, fu questa un grande esempio di democrazia. Grazie Massimo. E lei è di sinistra, quindi non è che abbiamo scelto la telefonata. Volevo dire proprio questo, quando bisogna custodire e tornare una misura, si può essere durissimamente, energicamente dissenzienti, ma custodendo un linguaggio che significa custodire dei principi. Quando si perde il linguaggio, si perdono i principi nella politica. Questo è il valore della tradizione. Che diciamo, signora, a Davide, che dalla provincia di Venezia ci chiede: Berlusconi sulle donne in politica si esprime in un certo modo, cosa ne pensa lei, cosa forse ne avrebbe pensato suo marito? Ma devo confessare che mi sembra che sia un po' esageratamente portata questa storia delle donne che Berlusconi porta, perché vedendo per esempio, io che conosco anche dalla parte della sinistra, per esempio ammiro molto la Finocchiaro, non è mica portata da Berlusconi, ma è una donna capace, e anche se non la penso vicino alla Bonino, devo ammettere che è una donna di capacità. Devo ammettere anche che l'attuale presidente della regione portata da Berlusconi non mi sembra che sia una donna che possa suscitare desiderio o cose. La Polverini è una donna capace che viene dal sindacato, quindi un mestiere già difficile, da conto suo, portata anche da Berlusconi, mi sembra che sia all'altezza del compito, come la Presti Giacomo per esempio, un'altra donna capace. Ecco, se poi ci troviamo dinanzi ad un'altra donna che magari vuole esprimere più quello che è la bellezza del suo fisico che le sue capacità, non è mica colpa di Berlusconi. Ecco, Berlusconi sta pensando di allargare a questa storia, che dicono che le donne hanno fatto la famosa battaglia, che sono alla pari degli uomini, e lui pensa forse di dare spazio a queste donne, che se poi non ne rispondono dal punto di vista intellettuale ma ne rispondono dal punto di vista fisico, ed io che sono dall'altra parte, cioè sotto il palco, vedo che è una bella donna, non è mica colpa di Berlusconi. Signora Assunta, lei non si è mai candidata, eccetera. Ma di fronte a quello che sta succedendo nel centrodestra, quello che succederà tra poche ore, ma insomma a questa dilapidazione che nei fatti, nei sondaggi, in questi mesi il centrodestra ha fatto della propria credibilità, del proprio prestigio, gli insulti tra i due leader, il fatto che anche chi li vota per primo dice: ma questi dove diavolo, cosa hanno in testa per comportarsi così? La domanda che le faccio è: perché continuare a escludersi davvero di impegnarsi direttamente con i valori che testimonia, con la sua storia che tutti le riconoscono, col nome che porta? Perché non farlo? Ma io non sono la donna che pensa di poter predicare da un palco. Non, ho l'impressione non di non averne la capacità, ma penso che non è proprio una mia predisposizione. E poi vedo che ci sono troppe vedove in Parlamento, quindi io ne farei un uso diverso, e poi temo anche il parere, non che lo temo, ma mi scoccerebbe sentire dire, avendo avuto accanto la fortuna di avere un uomo di quella grandezza, di quella capacità oratoria, di avere quella onestà morale che l'uomo aveva, che è morto praticamente lasciando solo 4 milioni sul suo conto corrente, non avendo nemmeno di lire, non euro, 4 milioni di lire, perché lui la liquidazione l'aveva impegnata, sentendosi il dovere di sistemare il figlio dell'uomo che l'aveva salvato, che gli aveva salvato la vita, Venturini, di regalare al ragazzo la possibilità di avere domani un alloggio, una casa. Quindi un uomo di quella portata mi sembrerebbe di offendere la sua volontà e anche il suo modo di pensare, che naturalmente è diverso di quello che c'è tuttora. Ecco, io penso che questa sola risposta dia l'idea di che cos'è la fedeltà a una certa visione, a certa tradizione, e soprattutto la misura. Eppure, sentite, la signora non si esprime risparmiando parole e giudizi chiari, compreso su Fini, Berlusconi e così via. Cari elettori del centrodestra in ascolto, pensateci bene quando vedete chi sono i leader di oggi, se rappresentano questi valori e questa misura. Io non voglio dire altro, tranne che ringraziare la signora Assunta, ripetervi che il libro si chiama La mia vita con Giorgio, Antonio De Pascali ha raccolto la testimonianza di donna Assunta Almirante, i libri del Borghese. E oltre a ringraziare lei, a ringraziare la regia Filippo Aureggi, Valerio Rocchetti, redazione Alessandro Marco Tulli, e darvi appuntamento a domani lì nel Giornale Radio.